Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Questa volta vi ricordo prima il mio blog. Lo conoscete, ormai si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. È molto visitato e di questo ringrazio anche voi radioascoltatori che accedete a questa nuova forma di dialogo tra giornalisti e lettori. La mail della trasmissione è unabusoalgiorno@radio24.it. Anche in questo caso devo dire di mail ne arrivano tantissime, molte veramente interessantissime, come ad esempio quella che ci ha spedito Roberto Di Giandomenico, un affezionato radioascoltatore che è papà di una bambina dislessica. Ci ha scritto per dirci: si avvicina il momento della valutazione di questi ragazzi a fine anno e, come ogni termine di anno scolastico, il regolamento per valutarli arriva in ritardo o non arriva. Ora, la cronaca ha reso superflua quest'ultima parte della lettera del nostro radioascoltatore perché è arrivato poi il regolamento di valutazione dei bambini dislessici, ma rimane il grandissimo problema di come integrare, far apprendere, come insegnare correttamente nella scuola a centinaia di migliaia di bambini dislessici. C'è chi parla di 350.000, c'è chi parla di 500.000, chi di 1 milione. Le cifre non sono mai corrette. Prima di entrare nel merito con i nostri ospiti, ascoltiamo brevemente una scheda sulla dislessia. La dislessia è la difficoltà a leggere correttamente e velocemente ad alta voce ed appartiene ai DSA, i disturbi specifici dell'apprendimento, che sono circoscritti ad alcuni processi fondamentali dell'apprendimento e che riguardano lo sviluppo di nuove abilità. I disturbi specifici dell'apprendimento riducono considerevolmente la possibilità di accedere alla conoscenza e questo disagio affligge soprattutto i piccoli scolari che si affacciano per la prima volta al mondo della lettura e della scrittura. I bambini dislessici possono leggere e scrivere o fare i calcoli, ma riescono a farlo solo impegnando al massimo le loro capacità ed energie, poiché non possono farlo in maniera automatica. Perciò si stancano rapidamente, commettono errori e non imparano. In Italia circa il 4% della popolazione è dislessico, ma pochissimi sono coloro che hanno ricevuto una diagnosi precoce e ancora meno quelli che hanno potuto accedere agli strumenti compensativi che la legge prevede. In questo senso diventano dunque fondamentali il ruolo dell'insegnante e la predisposizione di strumenti normativi ed educativi che garantiscono ai bambini affetti da DSA il diritto alla conoscenza e alla scuola. Bene, quella che avete sentito è una sintetica e magari anche sommaria scheda, ma che ci dice che la dislessia non è una malattia. Dico bene, Di Giandomenico? Esatto. Ecco, il termine affetti fa presupporre che sia una malattia, ma in realtà è un termine che non, cerchiamo di non usare, perché effettivamente non è una malattia. Diciamo, possiamo dire benissimo che questi bambini sono caratterizzati dai disturbi specifici dell'apprendimento e non affetti. Ecco, lei quando si è accorto di avere una bambina dislessica? Ecco, noi circa 3 anni fa, soprattutto, principalmente mia moglie si è accorta perché a scuola notava alcune difficoltà. Facendola valutare abbiamo avuto la conferma. E da lì è cominciata un po' quello che è il calvario di tutti i bambini dislessici, ecco, ovvero. Ecco, perché lei parla di. Ecco, lei perché parla di calvario? Spieghiamo bene ai nostri radioascoltatori il percorso di sua figlia. Innanzitutto, in quale parte d'Italia ci troviamo? Ecco, io sono in provincia di Varese. Benissimo. E niente, abbiamo avuto problemi quasi da subito con la scuola, con gli insegnanti. Perché purtroppo non è conosciuto, l'insegnante non è abbastanza preparato per affrontare questo problema. Ecco, una domanda da profano, proprio così come gliela farebbe qualunque altro radioascoltatore. Ma chi è dislessico ha diritto ad esempio ad un insegnante di sostegno? Ecco, questo diciamo è stato un po' il motivo che a noi ci ha fatto un po' incavolare, nel senso che mia figlia è stata affiancata ad un insegnante di sostegno a nostra insaputa. Un dislessico, tranne che in casi particolarmente gravi, non ha assolutamente bisogno di un insegnante di sostegno. Ecco, perché ripetiamolo, non trattasi di malattia. Esatto, non si tratta di malattia, tranne che in rarissimi casi, ma proprio, voglio dire, con una dislessia molto avanzata, molto più marcata. Certo, che classe frequenta sua figlia? Mia figlia frequenta adesso, finisce la quinta elementare, l'anno prossimo arriva in prima media e si ripartirà con gli insegnanti nuovi a spiegare cosa dovrebbero fare, anche se, essendomi attivato anche presso il nostro istituto comprensivo, sono riuscito a far organizzare dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti, a proporre un questionario di valutazione dei disturbi specifici di apprendimento da fare a tutti i bambini. Quindi diciamo così che il singolo, in questo caso un genitore, supplisce un po' a quello che dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni. Ricordiamo da questo punto di vista che esistono molte associazioni, lei ne ha segnalate due molto interessanti, io ne dico i siti, e sono dislessiainrete.org e dislessia.org/forum. Questo lo dico perché c'è anche un forum dei genitori di bambini dislessici. Un'ultima domanda prima di passare all'altro ospite di Gian Domenico: ma il tipo, diciamo così, di solidarietà o meno da parte dei genitori degli altri bambini, compagni di scuola di sua figlia, qual è stato? Quando noi abbiamo scoperto la dislessia di nostra figlia c'era soltanto un'altra bambina, perché non essendoci la conoscenza, non essendoci la presa di coscienza della scuola del problema, chiaramente tanti bambini non magari sono dislessici senza saperlo. Senza saperlo, questa è la cosa assolutamente più grave. Passiamo a questo punto a salutare con piacere il senatore Franco Asciutti della PDL. Buongiorno senatore. Buongiorno di nuovo. Allora, lei è un docente, un professore ed è stato affetto per un periodo della sua vita dalla dislessia. Forse anche per questo ha pensato bene di presentare un disegno di legge su questo argomento. Può parlarcene? Ma il disegno di legge l'ho presentato non per i miei ricordi, ma per una sensibilità dovuta a degli amici che avevano bambini dislessici, e poi mi è tornato in mente che fossi io. Lo sono ancora forse dislessico, qualche volta sbaglio a cambiare le parole. Ma detto questo, la motivazione è molto semplice: siamo ormai forse l'unico paese d'Europa che non ha preso in considerazione la DSA, cioè come un qualcosa per cui dobbiamo formare il personale docente per l'attenzione all'apprendimento nei confronti di questi bambini, che non sono malati. Il genitore diceva giustamente, certo, raramente alcuni sono malati, la gran parte non è malata, ma solamente che ha dei disturbi nell'apprendimento, certo. Vanno seguiti in maniera diversa, tutto lì. Ecco, ma voglio dire, sono diversi anni che lei ha presentato questo disegno di legge, il nostro radioascoltatore, mi corregga se sbaglio, parla addirittura di 8 anni, È possibile che in 8 anni le forze politiche riescano ad occuparsi di molte cose, gran parte delle quali inutili, e invece non si riesce ad affrontare un tema serio come quello che lei propone? Sì, ma il ragionamento fu questo. Nella legislatura precedente eravamo addirittura d'arrivo, cadde la legislatura e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Nella quella ancora precedente, quella del 2001-2006, iniziamo l'iter in ritardo, e poi c'è l'attenzione ai costi, quindi era un disegno di legge che avevamo un po' troppo farcito con dei costi eccessivi. Abbiamo rivisto il disegno di legge per quello che ci interessa, che la legge accetti il fatto che ci sia la possibilità di avere dei bambini con DSA, e quindi blocca tutto con la formazione dei docenti. Ecco, quello che interessa è che i docenti siano non solo informati, ma siano formati. Ecco, quello che proprio le stavo chiedendo era questo: mi rendo conto che sintetizzare un disegno di legge è praticamente impossibile. Che fosse interessato, però, basta andare sul sito del Senato, andare alla voce Asciutti Franco, e lì troverete ovviamente la proposta, il disegno di legge, il testo. Quindi è molto semplice trovarlo in rete. Quindi mi rendo conto che è difficile sintetizzarlo, però senatore, credo proprio che quello della formazione sia il tema fondamentale che lei affronta. È la parte fondamentale. Vede, nella mia esperienza, tornando a ritroso nei miei ricordi di bambino, io ho avuto alle scuole elementari un maestro che non ha compreso assolutamente il mio problema. Poi ho avuto un insegnante, e ancora mi ricordo, di italiano, alla scuola media, che si chiama Bentivoglio, proprio anche il nome. Certo. Era conseguenza al suo atteggiamento, che capì la mia difficoltà di apprendimento. In 3 anni io riuscì a prendere la miglior pagella dell'Umbria, pensi un po'. Quindi, e questo è importante proprio perché innanzitutto i docenti, dopo la sensibilità dei genitori, sono coloro i quali chiamati a capire e quindi guidare gli studenti che si trovano nelle proprie classi. Allora, questa è solo la prima di alcune puntate che noi dedicheremo alla dislessia. Quindi ringrazio il nostro radioascoltatore di Giandomenico, che è stato colui il quale ha avviato il motore di questa nostra inchiesta puntate sul mondo della dislessia. Ringrazio il senatore Franco Asciutti, lo ricordo, ha presentato un disegno di legge sulla dislessia. Ringrazio in regia Fabio Cantadori, in studio Laura Faggin, e Roberto Galulo vi dà appuntamento a domani con 2 testimonianze di genitori di bambini dislessici molto molto interessanti. Da Roberto Galulo, una buona giornata a tutti voi.